Sono andato a vedere il film degli Stones e sono rimasto colpito perché loro in attività da 50 anni si muovono sul palco come se fossero la caricatura di se stessi. Si muovono sul palco e sanno perfettamente quello che devono fare. Non sono nemmeno persone ormai, sono delle figure. Sono delle figure che mi hanno fatto assistere a qualcosa di incredibile. E infatti ho pensato quindi, questo è un miracolo del pop, tutto è possibile. Si muovono le energie, non sono più le persone che si muovono. È tutto più semplice. È un miracolo pop. Il pop. Avevamo il dito lungo, avevamo il dito lungo. Avevamo il dito lungo, il dito lungo. Avevamo il dito lungo, avevamo il dito lungo per mettere in culo al mondo. Avevamo il dito lungo per metterlo in culo al mondo. Ah, un miracolo pop. Ah, avevamo il dito lungo e per le strade. Un miracolo pop.